nazioni ho le intenzioni di tutta quanta la nazione unita. A mio mi rifutti la minchia! Signor giudice, io mi chiamo Florida Castruccio. Ho 47 anni. Sposata. Separata. E ricongiunta, Tre figli, due morti e uno perso al gioco. E non li riavrò mai più. A me non me ne fotte la minchia della lista della spesa, né della bolletta di pagare, né del gas, né della macchina, né dei bei vestiti, né delle vacanze, né delle scuole, né delle pensioni, né degli hobbit, né dei mobbit. Se non l'avete capito ancora, a mio me ne fotte una grande minchia. Pensavo, signor giudice, chissà poi perché sono stata chiamata Florida. Florida. Forse per il sogno americano di mio padre, o forse perché loro, i miei genitori, si auguravano avessi una vita Florida, ricca, e mica come la loro. O semplicemente perché mia madre si immaginava già venissi bella corposa, ma robusta, carnosa, A me non me ne fotto una minchia se cadono i governi e tutto pianita, mi starrete. Yeah. maglioni rossi per tutti quanti, perché tutti dobbiamo sembrare uguali a questo mondo. Nessuno deve essere lasciato indietro, va. Non è questo che voleva sapere. E che volesse sapere, signor giudice? Si è rubato. No, signor giudice, io non ho mai rubato, va. Io casomai ho ucciso. E ho ucciso me stesso. Troppe volte mi sono ucciso, sa, signor giudice? E in molti modi. E nella mia terra. Non sono l'unico che lo ha fatto. Mi sono ucciso quando ci permetti a sti cazzi mafiosi di essere dati. Quando ci permetti di trovare un travaglio, quando ci permetti di darmi i codici della vita, le speranze. Caro giudice, io mi sono ucciso quando ci permetti all'altro di parlare al posto mio, di darmi i consigli, le direzioni, gli assistenti sociali. Caro giudice, io mi sono ucciso quando ho permesso al mondo intero di mangiarsi tutto. Di mangiarsi pure l'acqua cristiana. Mi sono ucciso quando ci permetti a dar montagna e merda. E vendesse tutto, pure a somatri. E chiesto per quattro picciole. 41 bis, signor giudice. E me lo ricorderò fino alla morte. Per ogni giorno che resterò qua dentro, erete fiero di aver fatto quello che ho fatto. Senza paura. Senza pentimento. Beh, io e Pino ne avevamo molta di fame. E lui entrava in negozio ogni giorno e mi mangiava gli occhi, con gli occhi. Mi promise che la pasta con le sarde e la pasta al forno, da lì in poi, l'avrei fatta per tutta la famiglia. E così feci. Allora un giorno, signor giudice, mi ascolti, un giorno mi decisi di andare via, sì? E così salutai Tony e la moglie, anche se pure la liquidazione che mi aspettava, eh. E Tony mi cominciò a fare dei discorsi strani, mi cominciò a dire che non mi avrebbe più potuto né toccare né guardare. Tony, forse non l'hai capito, io sono promessa sposa di un uomo importante, un uomo importante. Dovevo verità esiste e bisogna dirla, anche a costo della morte. Io non voglio morire. Ma se perché sono pure io voglio amare. E allora perché lo fai? È perché qualcuno si deve accollare tutto questo, altrimenti che fine facciamo? Per lei, eh? politici potremmo anche accettare, ma lo Stato siamo noi, e loro tutti i giorni ci prendono in giro. E da signor giudice, non vorrei sembrarle un terrorista, chi di dell'ISIS, solo perché tengo la barba, ma a me non mi avete dato neanche la lametta, dice che io devo pagare. Però, visto che sono sempre qua dentro solo, ho deciso che con lei mi posso sfogare. Lei vuole sapere cose da me e io delle cose gliele dico, però gliele dico anche altre. E in questi mesi ho pensato, e pensavo di farci questa domanda, dico, ma secondo lei uccidere dei mafiosi è un reato? Ma secondo me non lo è, va. Anzi, le dirò di più. Chi lo fa andrebbe premiato. Il 41 bis lo dovrebbe dare a molte persone in questa nazione. O anche lei fa finta di niente. Dico, ma come se nessuno sapesse che qua in Italia ci sono paesi dove vince la pena di morte. E non perché lì sono delinquenti, ma per la gente per bene, per quelli che fanno chiarezza, per quelli che si ribellano a questo stato di cose. Ci sono paesi in Italia, signor giudice, dove l'economia è inquinata da miliardi sporchi della mafia e dove l'unica legge che conta è chi dà di cosche e dà lo para. Ci sono cristiani, signor giudice, che continuano a stare al governo nonostante abbiano accuse enormi al loro carico e nessuno che è riuscito a punirle, nessuno che è riuscito a fargli fare una sola ora di carcere. Ma dico, ma come si fa a parlare di coscienze pulite quando abbiamo tenuto Andreotti all'interno del governo per mezzo secolo? E ora che ha morito, tutti ci ridono, ci fanno le battute. E intanto quello si portò i segreti nella tomba e mai nessuno che è riuscito a cacciarlo. Anzi, si può dire che ha fatto scuola a quelli che oggi ci governano. E a questi signori l'hanno imparata bene la lezione. Hanno imparato il peggio dell'essere umano e sono persino orgogliosi di quello che sono. Secondo me, signor giudice, il 41 bis la dovremmo dare a loro, non a me. La dovremmo dare a loro, non a me. La dovremmo dare a loro, non a me. Signor giudice, tornando a noi, fino... Pino sì, c'era poco. Aveva un sacco da fare. E le cose andavano bene. Anche se io non dovevo sapere niente. Niente sapevo. Viaggiava sempre, sì. Una volta in Albania, una volta in Colombia, una volta a Roma, una volta a Milano, una volta in Inghilterra, eppure in Russia se ne andava. Era un uomo d'affari. Io ero solo la sua. Rimango incinta una, due, tre volte. E tutti i maschi mi sono venuti fuori, sa, signor giudice? E la famiglia orgogliosa mi regalava una casa sul mare. Sì, un appartamentino modesto, pulito, nuovo. Scendevi l'ultimo scherzo e potevi toccare la sabbia. Ma potevi toccare la pelle. Chi l'ha fatto è il nostro parente, sì. Sì, è il nostro parente, si occupa di fare palazzi. Io ci posso andare con i bambini solo quando non c'è lui e il resto della famiglia. Patatum! Che fai? Minacci di chi? persona come lei possa fare da giudice nella totale ipocrisia, in un mondo che crede soltanto all'autodistruzione e alla distruzione del prossimo. ci credo e rido. Insomma, lui piace sempre scherzare, prendermi in giro. Se, dai! Giuseppe piange per te. Dice, mamma, guarda che è arrivato il momento. Lo fai una cosa, Vai alla casa ormai, prendi tutte le cose, Aspetta il pai e sta attenzione, Non piangere però. Ce l'ho. Pino di Tadrittu. Ce l'ho. Carmine Squarta Camise. Ce l'ho. Billy Selvaggia. Tom Moloni. Ce l'ho. Otappo. Il Supremo. Strascino Fuente. Tom lo Sfrentato. Paoluccio l'Inverniere. Joe Adonis. Il Terpano. Daria Benno Trattori. Capatosta. Mimmo La Luna. Qua e Schiappa. Picchia Sodolanza. Berrettena. Tragazzare Italia. Ce l'ho. O Tossico. O Graunaro. O Guaglione. O Scellone. O Re dell'Oliva. O Re della Bufa. Daria Sandoca. O Tosselli Frutta. Spara tutto. Nitroglicerina. Mangiare. gente con i pad ci vuoi. Noi qua parà qua. Da, signor giudice. Qua al sud siamo romantici. Vediamo queste quattro bestie come salvatori del mondo. Vediamo queste quattro bestie come quelli che ci daranno la salvazione. E siamo noi che ci siamo illusi da soli. E ci siamo illusi con ignoranza, con ostinazione. Non me ne fotte niente, signor giudice. Io urlo quando mi pare. Voi mi fate le domande scomode e io urlo quando mi pare. È colpa delle banche. Ma che dice, signor giudice? A me non me ne fotte niente. Non me ne fotte niente delle banche. E non me ne fotte niente se attraverso l'economia ci faranno crollare. Come non me ne fotte niente se i più grandi truffatori sono da al Parlamento. Mio padre è morto in pecc... incaprettato, perché si rifiutava di stare a questo mondo corrotto. Ed è questo che mi ha insegnato. Osserva le loro regole, fate mai giustizia da sola. Signor giudice, mio padre non si vergognava di quello che faceva. Bene. Senta, signor giudice, invece mio padre si vergognava perché non ha saputo reagire. Signor giudice, ho capito che ci vuole molta intelligenza, Sì, per guidare questo gioco. Per guidare questo gioco ha delle regole ben precise. E che vanno rispettate tutte, dalla prima all'ultima! Senta, signor giudice, io invece ho capito che non ci può mica tanta intelligenza per vivere come pecore. E se passano le regole vanno distrutte. Dalla prima all'ultima! Ci stanno tante di quelle tasse che ho subito loro. l'imposta su Forestieri, la tabella sugli sposi, l'imposta sull'uscita di casa, la misteriosa efficienza, la tassa sulle centrali fantasma, la tassa sulla memoria, la tassa sullo studente, la tassa sul televisore, la tassa sui debiti, la tassa sugli sfratti, la tassa sulle pensioni, la contribuzione volontaria obbligatoria, cazzo, la tassa sul morto! La tassa sul morto, da uno non può morire che deve pagare ancora tasse! Oh, hanno messo pure la tassa sul tricolore! State attenti che potreste sventolare la bandiera ed essere multati per una tassa che non avete pagato di 140 euro! Solo da noi possono succedere queste cose, no? Questi si hanno inventato Equitalia! Dico, ma di niente di punto, hanno inventato Equitalia! Ma come ci si può fidare di loro, che sono loro i primi che fanno in modo che il cittadino abbassi la testa e ci convincono a pagare per tutto e per ogni cosa? Prima o poi ci tasseranno pure l'aria che ce ne esce da un culo. La dobbiamo tirare su questa testa, perché per cambiare il mondo dobbiamo cambiare prima quello che siamo noi, dal proprio interno. Dobbiamo cambiare come noi interagiamo nella società, come guardiamo la società, come parliamo nella società, quello che siamo all'interno della società. Poi possiamo pretendere dagli altri che ci diano l'esempio, quando saremo noi il nostro primo esempio. Tiriamola su questa testa. E non siamo dei semplici schiavi. Cambiamo.